Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Noi no. Beato chi ci crede, noi no non ci crediamo, noi baciando ci pensiamo. Piru piru piru ri, ri, ri. Le serenate sono romantiche, ma se piove son guai, le passeggiate in fiori loro. Gondoletta sulla laguna, c'è chi crede che la luna ci dà fortuna e che il primo grande amore scordare non si può. Noi no. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità, le idee, gli stili di vita, leggendo le notizie attraverso una lente speciale. Cerchiamo di rappresentare anche criticamente il mondo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, sapendo che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa millenaria appartenenza. No. Oggi parleremo di qualche buona notizia in arrivo dal fronte dell'orribile sperimentazione animale, di libri e nuovi film in arrivo riguardanti la questione animale e anche la questione vegetale. Non mancheranno una ricetta a tema e buona musica, tutto a cura di Gabriele Palloni. Speriamo di avervi incuriosito. Si chiama Wayne Xiong, classe 1981. È un avvocato statunitense, cofondatore di molti collettivi in prima linea per la liberazione animale. È lui che la mattina del 15 marzo 2026, sotto una pioggia leggera e gelida, ha guidato la Coalition to Save the Ridgeland Dogs, ovvero un buon gruppo di attivisti in una coraggiosa operazione di liberazione animale nella Ridgeland Farms del Wisconsin, un'azienda nella quale vengono allevati cani beagle per la ricerca scientifica. I manifestanti sono entrati illegalmente nella struttura utilizzando mazze, seghe elettriche e piedi di porco. È un'azione che a noi italiani ricorda la spettacolare irruzione nell'azienda Green Hill il 28 aprile 2012 a Montichiari, in provincia di Brescia, quando gli attivisti liberarono oltre 2600 cani beagle destinati alla vivisezione. Nel caso della Ridgeland Farms, la polizia ha intercettato due furgoni che trasportavano i cani salvati e ha arrestato alcuni attivisti. Almeno 22 beagle, dichiarano gli attivisti, sono ancora al sicuro. Tra le persone arrestate ci sarebbe l'ex star di Baywatch, Alexandra Paul, una sostenitrice della liberazione animale da ben prima della sua fama televisiva. Suo fratello minore, Jonathan Paul, ha scritto sui social: «Orgoglioso di mia sorella, Alexandra Paul, per aver aiutato a salvare i beagle dai vivisezionatori della Ridgeland Farms». Il salvataggio pubblico dei cani ha riacceso l'attenzione degli attivisti sui social media verso la Ridgeland Farms, una delle ultime aziende negli Stati Uniti a fornire ancora beagle alla ricerca biomedica, è destinata alla chiusura entro il 1 luglio 2026, dopo 8 anni di pressioni. Ma come riassunto online da Hopeful Herbivore, Ridgeland ha accettato di rinunciare alla sua licenza di allevamento nel Wisconsin e di smettere di vendere cani per la ricerca, per evitare accuse penali. Tuttavia, alla struttura è stato concesso di continuare a operare e di allevare cani ai fini di ricerca interna anche dopo tale data. Perciò, alla fine, gli attivisti hanno deciso di intervenire e liberare i cani. Ora si profilano delle conseguenze penali. L'avvocato Xiong, però, non dispera che il salvataggio aperto di Ridgeland sia giudicato legittimo. E porta come precedente incoraggiante un caso simile in Inghilterra. Sua moglie, Rose Patterson, è stata infatti assolta con altri attivisti dalla Liverpool Crown Court per un'azione compiuta il 20 dicembre 2022 in un allevamento di beagle dal gruppo britannico Animal Rising. Gli attivisti quel giorno tagliarono la recinzione e portarono via 18 animali. Gli attivisti accusati per questa vicenda, ha spiegato Xiong, sono stati assolti da tutte le accuse perché l'opinione pubblica è sempre più favorevole ai diritti degli animali. La giuria ha capito che i cani venivano pugnalati al cuore e squartati per prelevarne gli organi. Si è ribellata contro tutto ciò anche quando il governo ha detto loro che dovevano accettare l'abuso in quanto legale. L'argomentazione giuridica a favore del diritto al salvataggio non è mai stata adeguatamente sviluppata in tribunale, ha spiegato ancora Xiong, ma ha implicazioni significative per il futuro dei diritti degli animali, compresa la questione fondamentale se gli animali siano persone o cose. Il dibattito è aperto, ma la conclusione principale è chiara. Esistono numerose disposizioni di legge che creano plausibilmente un diritto di salvataggio degli animali dagli abusi. E questo resta vero anche se in alcuni casi i giudici decidono altrimenti. Insomma, il caso britannico, come a suo tempo le sentenze per la vicenda Green Hill, fanno capire che qualcosa sta cambiando anche nella prassi giudiziaria. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Una notizia incoraggiante nella lotta giuridica contro la sperimentazione sugli animali arriva dal TAR del Lazio, secondo il quale la sofferenza e il dolore provati dagli animali prevalgono come obiettivo di tutela sull'attività di ricerca. E questa è la motivazione alla base della decisione del TAR del Lazio che pochi giorni fa ha sospeso per 6 mesi la sperimentazione sui cani beagle praticata dalla Aptuit, azienda di ricerca farmaceutica del gruppo Evotec, che ha la sua sede e i suoi laboratori a Verona. La decisione è stata presa, come si legge nella sentenza, considerati gli articoli 9 della Costituzione e 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che fondano la tutela degli animali e il benessere in quanto esseri senzienti, ma anche per avere rilevato che nel bilanciamento degli interessi il dolore, la sofferenza, il distress e più in generale i danni alla salute degli animali impiegati nella sperimentazione in quanto ontologicamente irreparabili, risultano prevalere sulla continuità di un'attività di ricerca che si protrae da anni. Questa affermazione è molto importante perché la sperimentazione sugli animali si giustifica proprio nell'idea che a prevalere debba essere sempre l'interesse della sola specie umana. Questa sentenza dà dunque una picconata al fondamento antropocentrico della vivisezione o sperimentazione animale, come viene pudicamente chiamata. La UpTweet di Verona dovrà ora interrompere le ricerche in corso sull'uso della telemetria nel cane Beagle per la valutazione cardiovascolare della sicurezza farmacologica, fino al prossimo 22 settembre, data che il TAR del Lazio ha stabilito per l'udienza che dovrà valutare nel merito l'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute e le modalità con cui gli esperimenti vengono condotti. Gli esperimenti contestati, spiega l'associazione LAV Lega Antivivisezione, prevedono procedure altamente invasive che si aggiungono alle asettiche artificiali gabbie in cui i cani sono costretti a vivere. Vengono impiantate chirurgicamente sonde con elettrodi e cateteri per monitorare parametri fisiologici come attività cardiaca e pressione sanguigna durante la somministrazione di sostanze. Interventi che comportano operazioni chirurgiche, dolore e complicazioni post-operatorie, oltre a stress e gravi alterazioni comportamentali per gli animali coinvolti. Queste sperimentazioni hanno portato a indagini proprio sui laboratori UpTweet di Verona, nei quali sono stati sequestrati e poi liberati, grazie all'associazione LAV, una cinquantina di animali. Dal canto suo, l'amministratore delegato dell'azienda ha denunciato che con questa mossa il tribunale sta pregiudicando cure fondamentali per moltissime persone. In una nota, UpTweet dichiara di augurarsi di poter chiarire con la Procura di Verona, quanto prima, quei profili di presunta irregolarità che non hanno trovato alcun riscontro negli innumerevoli controlli delle autorità e degli organi competenti intervenuti in questi anni. La risposta indiretta è di Michela Kuan, biologa e consulente scientifica dell'area ricerca senza animali della LAV. Un'altra ricerca, le sue parole, è possibile e doverosa per l'avanzamento della scienza nel rispetto delle vite animali, umane e dell'ambiente. No, I don't want your number, no, I don't wanna give you mine, no, I don't wanna meet you. Piante sono la forma di vita dominante sul pianeta. La biomassa terrestre, stimata in circa 550 gigatonnellate di carbonio, è composta per oltre il 90% dalle piante. Nonostante questa evidenza, noi animali umani tendiamo ad ignorarle, a non vederle, a non fare caso a loro. In inglese questo fenomeno riconosciuto ha un nome, si chiama plant blindness. Non riusciamo ad accorgerci dell'esistenza delle piante perché le consideriamo inferiori agli animali. Nel 2014 la North Dakota State University ha eseguito un test sull'attenzione visiva, proiettando davanti agli occhi di numerosi volontari una serie di immagini riproducenti sia piante che animali. E si è notato che da parte dei partecipanti, a dispetto della importanza delle piante nella biosfera, venivano riconosciute, individuate e ricordate con maggiore precisione le foto ritraenti gli animali. Il nostro cervello ha una spiccata preferenza per la somiglianza e nota principalmente le creature più simili a noi, ritenendo più interessanti e significativi gli animali non umani rispetto alle piante. Tra i termini correlati in lingua inglese alla plant blindness si annoverano incuria delle piante, plant neglect, lo zoocentrismo e lo zoosciovinismo. Partono da questo fenomeno, ma si spingono ben più lontano, le originali e acute riflessioni dei Troglodita Tribe, la coppia di autori e attivisti antispecisti che ci presentano il loro ultimo libro, Botanica Nera. Botanica Nera. Avete mai sentito parlare di cecità vegetale? No, non è una malattia della vista, è la condizione normale di noi umani. È la nostra incapacità di notare, apprezzare e riconoscere l'importanza vitale delle piante, spesso ridotte a uno sfondo verde, del tutto indifferenziato e inerte. Anche quando le guardiamo, in realtà non le vediamo, le usiamo, ma non le riconosciamo, le calpestiamo, strappiamo, bruciamo, distruggiamo e non ce ne accorgiamo nemmeno. Il concetto di cecità vegetale è stato introdotto solo nel 1999 dai botanici James Wandersey ed Elizabeth Schuchard, ma ormai è considerato un vero e proprio schema culturale cognitivo che ci porta a considerarle inferiori, incapaci, meno vive di un qualunque altro essere senziente, pur avendole continuamente sotto gli occhi. È difficile superare la cecità vegetale, difficile perché il nostro antropocentrismo le ha relegate così in basso da renderle invisibili. Di sicuro ci vorrebbe qualcosa di scioccante, di destabilizzante. È proprio per questo che oggi vi presentiamo il nostro nuovo libro, Botanica Nera, storie di piante assassine. Dovremmo dirvi che è un libro di racconti minimi e surreali, che sono delle distopie noir condite con decisive sfumature di humor nero, ma sarebbe riduttivo, perché è un libro che abbiamo pensato e scritto pensando proprio alla giustizia, giustizia selvaggia, vegetale, silenziosa, un tipo di giustizia che non ti avvisa prima, perché ormai è troppo tardi, perché da millenni ripetiamo la stessa vecchia cantilena: la natura è buona, la natura è madre, la natura è nostra, da custodire, da governare, da sfruttare con moderazione, magari, se siamo in vena di gentilezza. Ma le piante non hanno mai creduto a questa storia. Mentre noi diamo del vegetale alle persone in stato comatoso, mentre usiamo questo termine per indicare una persona passiva, inerte, incapace, le piante crescono sempre più forti, tramano sottoterra, intrecciano alleanze, comunicano attraverso reti radicali che si ramificano incessantemente. Questo libro lo abbiamo scritto a casa nostra, nel sud della Sicilia. Prima però abbiamo abitato ai margini di un bosco per 10 anni. E vi diciamo una cosa, un bosco non è uno sfondo, non è uno scenario, non è un polmone verde da proteggere con una donazione da 5 euro al mese. Un bosco è una comunità di viventi con diritti pari ai nostri, anche superiori, visto che esistono da molto prima, e noi continuiamo a trattarli come arredamento, come risorse, come niente. Botanica Nera nasce da lì, da quella rabbia, da quella meraviglia, dall'antispecismo che non si ferma agli animali, perché se difendiamo gli animali e poi abbattiamo una foresta o strappiamo i petali di una margarita per sapere se qualcuno ci ama o spegniamo sigarette ai piedi di una siepe, stiamo solo spostando il confine dell'indifferenza un po' più in là. Ma Botanica Nera non è un libro che dispensa saggezza. Abbiamo preferito la provocazione, abbiamo scelto di esagerare, di mostrare le estreme conseguenze della nostra indifferenza, della nostra inguaribile cecità vegetale. Non prediche quindi, ma 57 storie minime, con protagoniste loro, le piante, che si stancano, che decidono, che agiscono, anzi reagiscono. Troverete anche la preziosa prefazione di Alessandra Viola, saggista e ricercatrice accademica specializzata in botanica. Botanica Nera, storie di piante assassine, Pop Edizioni. Un ultimo avvertimento prima dell'apocalisse verde. I vegani in Italia stanno riscrivendo le regole della vita quotidiana, dallo sport alla cucina, dall'attivismo alla medicina, Sempre più persone scelgono uno stile di vita vegano per sfidare tradizioni e pregiudizi. Esce in questi giorni Maledetti Vegani, il docufilm che racconta storie, sfide e rivoluzioni plant-based in Italia. In un paese dove il cibo è quasi una religione e le tradizioni culinarie sono intoccabili, sportivi, chef, medici e attivisti che hanno scelto uno stile di vita vegano dimostrano che è possibile coniugare salute, etica e gusto. Ma non si parla solo di cibo, perché il vegan è una rivoluzione culturale che abbraccia sport, salute, attivismo e ristorazione, sfidando miti e pregiudizi e raccontando il potere di una scelta consapevole. Ci presenta il film lo stesso regista, Fabrizio Gammadella. Ecco le date delle proiezioni nelle diverse regioni in cui andiamo in onda. Non sono previste date in Alto Adige. Per l'Emilia-Romagna il 23 e 24 marzo a Cesena al Cinema Aladdin. Per il Friuli Venezia Giulia il 30 marzo a Trieste al Cinema Nazionale. In Piemonte il 18 aprile a Biella al Biveg al Palazzo Gramo Losa. In Liguria il 19 aprile a Genova al Nickelodeon. In Toscana il 26 aprile a Firenze allo Spazio Alfieri. Maledetti vegani. No, non è un'imprecazione, ma il titolo del documentario sul mondo vegano italiano in uscita al cinema in tutta Italia a partire dal 23 marzo. Ciao a tutti, io sono Fabrizio, il regista di Maledetti Vegani. Con questo lavoro abbiamo riunito in un solo progetto alcuni degli esponenti più influenti della scena vegetale italiana. Fabiola Vigammami, Silvia Goggi, Max Brunaccioni, Massimo Manni, gli Scarabocchi di Michael e Mirko, Riccardo Bugari, Fabio Andreoli, Vegan Coach e tanti altri. E per non farci mancare nulla, abbiamo lanciato una sfida a tre onnivori del mondo del doppiaggio italiano, invitandoli a provare alcuni dei ristoranti vegani più gustosi d'Italia. Riconoscete questa voce? Togli il tuo grembiule e lascia la cucina di Masterchef! È Gianluca Iacono, doppiatore di Gordon Ramsay in Masterchef e del principe dei Saiyan Vegeta in Dragon Ball. Maledetti Vegani è un film per tutti, senza scene di violenza, da far vedere a familiari e amici. È il modo migliore per mostrare l'universo vegano a chi vi circonda, senza pregiudizi e senza timore. Per conoscere le città e le date di uscita, andate sul sito di nfilm.it oppure seguite la nostra pagina Instagram, Maledetti Vegani. Mi raccomando, spargete la voce e non perdete questa incredibile occasione per rispondere una volta per tutte a tutti quelli che ancora ci chiedono nel 2026 dove prendiamo le proteine. Maledetti Vegani, al cinema! And I said, no, no, no, no, I don't smoke it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. A woman that I know just came from Mallorca, Spain. She smiled because I did not understand. Then she held out of cocaine. She said it was the finest in the land. And I said, no, no, no, no, I don't drink it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. And then it makes it hard to find a door. Well, I said, no, no, no, no, I can't take it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. And then it makes it hard to find a door. Per la cucina, il tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore tra gli altri del libro Se vuoi vivere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, ci propone oggi una ricetta dedicata ai cani beagle liberati, con l'augurio che non cadano mai più nelle mani dei loro aguzzini. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Tu vuoi fare l'americano? Cantava un giovane carosone. Se l'americano in questione ha contribuito alla liberazione dei beagle allevati per la vivisezione, direi di sì. E in segno di gratitudine dedichiamo loro una ricetta immancabile sul buffet di un American Brunch, le hash brown. Gli ingredienti per 4 persone sono 4 patate medie bianche, una cipolla bionda, 60 g di farina tipo 0, 20 g di farina di ceci, un pizzico di curcuma in polvere, olio per friggere, sale e pepe. Sbucciate le patate e grattugiatele con una grattugia a fori larghi. Lavate le patate grattugiate fino a quando l'acqua diventa limpida, quindi scolate e strizzatele bene. A parte sbucciate e tritate finemente la cipolla. In una ciotola unite le patate e la cipolla, la farina e la farina di ceci, la curcuma, sale e pepe e mescolate bene per amalgamare il tutto. Con le mani o con l'aiuto di due cucchiai formate delle frittelle di circa un centimetro di spessore. Friggetele in una padella con abbondante olio ben caldo fino a quando saranno dorate su entrambi i lati. Occorreranno circa 5 minuti per lato. Scolate le frittelle e fatele asciugare su carta per frittura. Servite le hash brown calde con un pizzico di sale in superficie. Dovresti andare a lavorare, non farti manganellare nelle piazze. Grazie, ma no, grazie. E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti dare meno ascolti i sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no, grazie. Ma no, grazie. C'è chi non sa più come scrivere, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. Ma che storia triste. C'è chi annuisce fra le frasi fatte. E c'è chi stupisce sempre a mani basse. Grazie ma no, grazie. Grazie ma no, oh, oh, oh, oh. Grazie ma no, grazie. Per questa puntata è tutto. Vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino, Luca Daddi, Camilla Lattanzi e Anna Granata, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 843 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.